aperti i microfoni. 16:59, ci prendiamo un minimo di margine perché questa è veramente una puntata speciale di letture per due motivi. Il primo è perché siamo assenti da mesi ed è bello tornare. Quindi ringraziamo la redazione, ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ringraziamo lo sponsor. Siamo tornati, ringraziamo lo sponsor, siamo tornati. E tornate. La seconda bella notizia è che per la prima volta nella sua storia, a parte persone che entrano e escono a caso dalla porta della radio, abbiamo un ospite vero qua a letture. Anzi, in realtà c'è stato il momento di formazione e festa della radio nel 2020 in cui si è fatto letture a più voci, però quella era un'edizione speciale. Diciamo che nella quotidianità del programma non capita spesso. Io invito e esorto le persone a proporsi, perché letture è un momento di solitaria radiofonia in cui si porta un libro e si inizia a leggere a caso, un po' una sorta di audiolibro. E l'ospite di oggi ci stava suggerendo che abbiamo plagiato un altro programma della beneamata Mamma Rai radiofonica. Quindi la bellissima, seconda bellissima notizia del giorno è che abbiamo un ospite, ma non è un ospite qualsiasi, è stato preso e rubato da Zona Rossa, perché è l'attore di Zona Rossa, Tommaso Russi, è qui con noi. Chi ci vorrebbe quel suono pa, pa, pa, ma non abbiamo. Non l'abbiamo, no, non beh, l'abbiamo. Sì, però non vengo a fare l'attore, non a leggere, leggi tu. Sì, leggo io, però l'autore che iniziamo oggi e che per me è un inizio, nel senso che ho letto questo suo libro durante l'estate, quindi sono un novello. È successa una cosa divertente, perché quest'estate, mentre ci confrontavamo con Tommy, cosa stai leggendo, cosa stai leggendo, ah guarda che sto leggendo Fisher, e tu hai risposto pure io, anzi non solo pure io lo sto rileggendo, perché l'ho letto per la prima volta in inverno, perché stavo per iniziare a lavorare a un lavoro col Teatro Stabile del Veneto, in cui c'era una riscrittura di Dante in cui al posto della religione c'era il capitalismo, che mi sembra abbastanza. E tra le letture consigliate per iniziare ad avere un linguaggio comune, un pensiero comune su cui incontrarsi, c'era proprio Realismo capitalista di Fisher. E l'ho incontrato così, attraverso il teatro, e poi non l'ho più mollato. Adesso ho iniziato Spettri, perché per chi sta cercando delle idee al di fuori del capitalismo, anche delle nuove parole, diciamo, provare a incontrarne qualcuna come quella di Fisher, che però anche lui ce la fa fino a un certo punto a trovarne. Ce la fa fino a un certo punto, anche perché poi fa il salto, nel senso che ha fatto dei ragionamenti che l'hanno portato a fare una brutta fine. Ora magari facciamo un po' quelli che leggono le cose su internet per dare delle informazioni più dettagliate, perché a livello anagrafico non siamo così prati, diciamo che lo siamo a livello empatico. Esatto. Nel senso che la cosa bella di questo libro, diciamo una delle parti più interessanti, è il metodo con cui è stato scritto, perché è un metodo molto accessibile. Abbiamo davanti un oggetto che è alla sua, se non sbaglio, sesta, settima ristampa. Aspettate che leggo per non dire stronzate. E non edizione addirittura del 2018, editata da Nero. Però chi... è la prima italiana. È la prima italiana, esatto. Chi conosce questa casa editrice sa perfettamente che ha tra le mani dei saggi che a volte possono risultare anche molto complicati se non si hanno degli strumenti di background per leggerli. Questa cosa è criticabile, può essere non criticabile, però è un dato di fatto. Abbiamo davanti un oggetto che, vabbè, a parte che si presenta molto piccolo, quindi di breve lettura, sì, infatti non spaventa guardarlo, esatto. E infatti riusciremo a completarlo nel giro di 2 o 3 puntate, questo ci auguriamo. Ma il metodo in cui è scritto è molto accessibile, ti induce comunque a fare delle riflessioni utilizzando sicuramente un glossario molto più ricco rispetto a anche altri testi che siamo più abituati a leggere sulle riviste di critica piuttosto che sui libri di filosofia, eccetera. Però molto più accessibile, perché è più vicino, secondo me, ai giorni nostri, anche a un immaginario che sì, conosciamo. Appunto, questa questione dell'immaginario è molto importante, perché nei moltissimi esempi che Fisher fa in questo libro, anche in Spettri, cerca sempre di utilizzare degli esempi che fanno parte della cultura popolare. Quindi film, musica, spesso cita la jungle, spesso usa proprio film, ma non film d'autore, film che sono stati visti da buona parte della popolazione in potenza, e quindi c'è proprio un tentativo di parlare a una comunità che non è fatta già di studiosi, un po' come sta tentando di fare adesso in qualche modo Raffaele Alberto Ventura, che anche lui prende esempi di... Bravissimo. Lui addirittura usa anche il teatro, che però è meno popolare di... Per me, che sono attore, è stato figo quando ho letto delle robe in cui... Mentre Fisher riesce a utilizzare appunto la musica il cinema, le serie TV, cita spesso il Channel 4, che è il canale di Skins, per dirne una. Cita Bifo Berardi, che è un altro autore. Cita Bifo. Di Nero. Esattamente, che è un altro autore che scrive per Nero, un autore che seguiamo spesso e di cui abbiamo letto anche dei passaggi, se non sbaglio, durante delle vecchie puntate, però, o qualche articolo. E niente, quindi Tommaso giustamente ha citato una parte molto interessante, che è il collegamento sicuramente al cinema, ma ne parliamo magari più tardi, però alla musica, perché faccio un preambolo, nel senso che nei suoi scritti, all'interno dei suoi blog, perché abbiamo anche davanti la figura non solo di uno scrittore di libri, ma di un blogger vero e proprio, quindi di un navigatore del web negli anni 2000, La sua passione per la musica. La sua passione per la musica è sconfinata, si rifà alla musica techno, alla jungle, appunto, all'hardcore, eccetera. E online, ovviamente postume, sono uscite delle playlist in suo onore. Nero ne ha raccolta una molto interessante, che è, l'hanno chiamata Not Mixtape numero 5, In Memoriam di Mark Fisher. Poi mandiamo il link sul canale Telegram. Tutte le musiche che sentirete in questa puntata, anche quella che va in sottofondo adesso, sono prese da questi articoli, da queste playlist che i suoi seguitori, i suoi fan, i suoi lettori hanno interpretato a livello di passione. Stiamo parlando proprio di una persona che amava quel tipo di musica e la inseriva anche all'interno di dei ragionamenti per far arrivare a cogliere certi tipi di atteggiamenti dell'uomo. Per esempio, in Spettri, però non nel libro che andiamo a leggere, che andrai a leggere, utilizza la jungle per fare tutto un discorso sul fatto di questo momento in cui è come se fossimo in un tempo che non ha un tempo, nel senso che ogni cosa che arriva, per quanto nuova, in realtà va a rimescolare da generi che già c'erano. E lui invece con la jungle dice: una delle ultime volte che musicalmente, da esperto di musica e amante della musica, che mi è successo di sentire una cosa che era di quel momento e che non poteva essere una cosa che arrivava prima, è stata con la jungle. E dice proprio: mi è sembrata che fosse una musica venuta dallo spazio. Incredibile, bellissimo, no? Questa cosa è molto interessante, quindi adesso lanciamo un pezzo di queste bellissime. La playlist è divisa tra quella di Nero e un'altra che trovate su YouTube, che è tutta unita. Noi abbiamo preso le tracce, le abbiamo portate qua in radio, quindi abbiamo colorato anche un po' il database della musica. Ora vi lasciamo finire con Roxy Music di Edition of You e vi mettiamo in coda, così prepariamo un po' la voce e altre considerazioni, un altro artista che viene citato moltissimo da Fisher, che è The Caretaker, che abbiamo già in database radio. Adesso aggiungiamo anche questa ennesima traccia, quindi a tra pochissimo e buon ascolto. Bentornati a Letture. Iniziamo oggi Realismo capitalista di Mark Fisher. Sarà una bella discesa, contiamo di finirlo in un paio di puntate. Grazie a Radio ZM di esistere, grazie redazione, buon ascolto. Seconda di copertina. È davvero più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo? E perché ci siamo ormai assuefatti all'idea che, per dirla come Margaret Thatcher, non c'è alternativa al sistema in cui viviamo? Da queste domande prende spunto uno dei più incisivi e influenti saggi critici degli ultimi 15 anni, il manifesto politico ed estetico del filosofo inglese Mark Fisher, per la prima volta tradotto in italiano, e di questo ringraziamo Nero Edizioni, con un bellissimo libricino che abbiamo tra le mani, con un bellissimo artwork in copertina. E abbiamo deciso di tranciare di netto la prefazione, perché anche con il nostro ospite, l'attore Tommaso Russi, prestato da Zona Rossa, ci siamo confrontati e abbiamo pensato che una prefazione, sicuramente per un libro che viene cominciato, può essere un po' uno spoiler e ha una migliore comprensione alla fine, quindi la mettiamo in chiusura e andiamo direttamente al primo capitolo. Capitolo 1. È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. In una delle scene chiave dei Figli degli Uomini, il film di Alfonso Cuarón del 2006, il protagonista Theo, interpretato da Clive Owen, fa visita a un amico alla centrale elettrica di Battersea, ormai un incrocio tra un ufficio governativo e una collezione d'arte privata. Tesori come il David di Michelangelo, Guernica di Picasso o il maiale gonfiabile dei Pink Floyd sono conservati in un edificio che è a sua volta uno stabile storico ristrutturato. Sarà il nostro unico sguardo sulla vita delle élite, rintanate lì dentro per proteggersi dagli effetti di una catastrofe che ha provocato la sterilità di massa. Da generazioni non nascono figli. Theo domanda all'amico che senso ha mettersi a collezionare tante opere d'arte visto che nessuno potrà più vederle. Il pretesto non possono essere le nuove generazioni, per il semplice motivo che non ce ne saranno. La risposta è nichilista ed edonista assieme. Molto semplice. Non ci penso. A rendere interessante una distopia come I Figli degli Uomini è il fatto che rifletta in maniera puntuale la temperie del tardo capitalismo. Quello che ci troviamo di fronte non è il classico scenario totalitario di titoli distopici come V per Vendetta. Il film di James McTaggie del 2005, d'accordo. Nel romanzo di P.T. James, da cui è tratta la pellicola di Cuarón, la democrazia è sospesa e il paese è retto da un autoproclamato governatore. Ma la sceneggiatura del film, tutto questo, lo lascia saggiamente sullo sfondo. Per quel che ne sappiamo, le misure autoritarie che intuiamo dalla trama possono essere state attuate all'interno di una cornice ancora democratica, almeno nominalmente. La cosiddetta guerra al terrore ci ha già preparato a simili sviluppi. La normalizzazione della crisi ha prodotto una situazione nella quale la fine delle misure d'emergenza è diventata un'eventualità semplicemente impensabile. Quand'è che la guerra potrà davvero dirsi conclusa? Guardando I Figli degli Uomini ho inevitabilmente pensato alla frase di volta in volta attribuita a Frederick Jameson o a Zizek, quella secondo la quale è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. È uno slogan che racchiude alla perfezione quello che intendo per realismo capitalista. La sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l'unico sistema politico ed economico oggi percorribile, ma che sia impossibile anche solo immaginare un'alternativa coerente. Un tempo, i film e i romanzi distopici erano esercizi di immaginazione in cui i disastri agivano come pretesto narrativo per l'emersione di modi di vivere nuovi e differenti. Come I Figli degli Uomini, questo non avviene. Il mondo che prefigura sembra una strapolazione e un'esacerbazione del nostro, più che una realtà alternativa vera e propria. In quel mondo, come nel nostro, ultra-autoritarismo e capitale non sono in alcun modo incompatibili. I campi di internamento e le caffetterie in franchise coesistono in tutta tranquillità. Nei Figli degli Uomini lo spazio pubblico è abbandonato, popolato da null'altro che immondizia e animali in libertà. Una scena particolare e molto suggestiva è ambientata in una scuola ormai a pezzi, dentro le quali troviamo una renna che corre. I neoliberali, ovvero i realisti capitalisti per eccellenza, hanno più volte celebrato la distruzione dello spazio pubblico. Ma contrariamente alla loro aspirazione ufficiale, nei Figli degli Uomini non assistiamo a nessun arretramento dello Stato, quanto semmai un ritorno dello Stato alle sue origini originarie funzioni di stampo militare e poliziesco. A proposito, se ho parlato di aspirazioni ufficiali è perché l'ideologia neoliberale, nonostante ami da sempre scagliarsi contro lo Stato, è proprio sullo Stato che ha surrettiziamente contatto. Il fenomeno è stato particolarmente evidente durante la crisi del 2008, quando, come da indicazione degli ideologi neoliberali, gli stati si sono precipitati in soccorso del sistema bancario. Nei Figli degli Uomini la catastrofe non è dietro l'angolo, né è già avvenuta, piuttosto viene attraversata. Non c'è un momento preciso in cui il disastro si compie, né il mondo finisce con un bang, semmai si esaurisce, sfuma, va lentamente a pezzi. Da dove viene questa catastrofe? Chi lo sa? Le sue cause affondano in un passato lontano e sono così assolutamente scollegate dal presente da non sembrare altro che il capriccio di qualche entità maligna, un miracolo negativo, una maledizione che nessuna penitenza potrà mai emendare. Una simile rovina potrà essere placata soltanto da un intervento ancor meno prevedibile dell'origine stessa della maledizione. Agire è del tutto inutile. Ad avere senso è solo una speranza insensata. Proliferano superstizioni e religioni, primi rifugi dei disperati. Ma che dire della catastrofe in sé? È chiaro che il tema della sterilità va letto metaforicamente, come allusione a un altro tipo di ansia. Quello che sostengo è che quest'ansia vada letta in termini culturali e che il film ponga la seguente questione: senza il nuovo, quanto può durare una cultura? Cosa succede se i giovani non sono più in grado di suscitare stupore? I Figli degli Uomini riflette il sospetto che la fine del mondo sia già avvenuta, l'idea che molto probabilmente il futuro non porterà altro che la reiterazione e ripermutazione di quanto esiste già. Possibile che davvero non ci aspettiamo cambiamenti di sorta, che non rimarremo più spiazzati da quello che verrà? Ansie del genere tendono a produrre un'oscillazione bipolare. La speranza vagamente messianica che prima o poi qualcosa di nuovo dovrà pur succedere scivola nella tetra convinzione che niente di nuovo accadrà mai sul serio. Dalla Next Big Thing l'attenzione si sposta sull'ultima grossa novità. A quanto tempo fa risale e quanto grossa era davvero? Sui Figli degli Uomini si allunga l'ombra di Eliot, se non altro perché il tema della sterilità deve molto alla Terra Desolata. Anche l'epigrafe finale, Shanti Shanti Shanti, ha più a che vedere con il frammentarismo di Eliot che con la pace evocata dalle antiche sanscrite. Ma forse, tra le pieghe del film, è possibile intravedere un altro Eliot ancora, quello di tradizione e talento individuale. Fu in quel saggio che Eliot, anticipando Bloom, descrisse la relazione reciproca tra canone e nuovo. Il nuovo definisce se stesso come risposta a quanto è già stabilito. Allo stesso tempo, quanto è già stabilito, deve riconfigurarsi in risposta al nuovo. Secondo Eliot, l'esaurimento del futuro ci lascia anche senza passato. Quando la tradizione smette di essere contestata e modificata, smette di avere senso. Una cultura che si limita a preservare se stessa non è una cultura. Nel film, Il destino della Guernica di Picasso, un tempo grido di dolore contro le atrocità fasciste, adesso un quadro come un altro da appendere al muro, è esemplare. Esattamente come lo spazio che lo ospita a Battersea, il dipinto può aspirare a uno status iconico solo se spogliato di qualsiasi contesto o funzione. Nessun oggetto culturale conserva la propria potenza se non ci sono più nuovi sguardi a osservarlo. Perché la cultura si trasformi in una serie di pezzi da museo non c'è bisogno di attendere un futuro alla I Figli degli Uomini. Il potere del realismo capitalista deriva in parte dal mondo in cui il capitalismo sussume e consuma tutta la storia pregressa. È un effetto di quell'equivalenza che riesce ad assegnare un valore monetario a qualsiasi oggetto culturale, si tratti di icone religiose, pornografia o il capitale di Marx. Provate a passeggiare per il British Museum. Vedrete oggetti privati di ogni vitalità riassemblati come sul ponte di qualche astronave alla Predator. E potrete così godervi una potente rappresentazione di questo processo. Nella conversione di pratiche e rituali in puri oggetti estetici, gli ideali delle culture precedenti diventano strumento di ironia oggettiva e si ritrovano trasformati in artefatti. In questo senso, il realismo capitalista non è semplicemente un particolare tipo di realismo, è più il realismo in sé e per sé. Il capitale ha spento le più celesti estasi del fervore religioso, dell'entusiasmo cavalleresco, del sentimentalismo filisteo, nelle fredde acque del calcolo egoistico. Ha trasformato la dignità personale in valore di scambio e al posto delle tante e inalienabili libertà conquistate a caro prezzo ha stabilito un'unica, spregiudicata libertà, quella del commercio. In una parola, allo sfruttamento camuffato da ragioni politiche e religiose, ha sostituito lo sfruttamento più scoperto e spudorato, diretto e brutale. Il capitalismo è quel che resta quando ogni ideale è collassato allo stato di elaborazione simbolica o rituale. Il risultato è un consumatore spettatore che arranca tra ruderi e rovine. Eppure, proprio la trasformazione dell'ideale in estetica, del coinvolgimento attivo in spettatorialità, andrebbe considerata una delle virtù del realismo capitalista. Rivendicando, per dirla con Badiou, di averci liberato dalle fatali astrazioni ispirate dalle ideologie del passato, il realismo capitalista si presenta come uno scudo in grado di proteggerci dai pericoli di qualsiasi ideale o credenza. L'atteggiamento di ironica distanza così tipico del capitalismo postmoderno dovrebbe immunizzarci dalle seduzioni di ogni fanatismo. Abbassare le nostre aspettative è il piccolo prezzo da pagare per essere messi al sicuro da terrore e totalitarismi, o almeno così ci dicono. Viviamo in una contraddizione, ha osservato Badiou. Ci viene presentato come ideale uno stato delle cose brutali e profondamente ingiusto, dove ogni esistenza viene valutata in soli termini monetari. Per giustificare il loro conservatorismo, i partigiani dell'ordine costituito non possono davvero dire che questo stato sia meraviglioso o perfetto, e quindi hanno deciso di dire che tutto il resto è orribile. Certo, dicono, non vivremo in un paradiso, ma siamo fortunati a non vivere in un inferno. La nostra democrazia non sarà perfetta, ma è meglio di una dittatura truculenta. Il capitalismo è ingiusto, d'accordo, ma non è criminale come lo stalinismo. Lasciamo che milioni di africani muoiano di AIDS, ma non rilasciamo dichiarazioni nazionaliste e razziste come Milosevic. Uccidiamo iracheni con i nostri aerei, ma non tagliamo mica le gole con i maceti come Wanda. Il realismo è qui analogo alla prospettiva al ribasso di un depresso che crede che qualsiasi stato positivo, qualsiasi speranza, non sia altro che un'illusione pericolosa. In quella che è senza dubbio la più notevole analisi dei tempi di Marx, Deleuze e Guattari descrivono il capitalismo come una sorta di eventualità oscura che ha perseguitato tutti i precedenti sistemi sociali. Il capitale, dicono, è la cosa innominabile, l'abominio che la società primitiva e feudali tentavano di tenere a distanza. Quando poi finalmente arriva, il capitalismo si accompagna a un'imponente desacralizzazione della cultura. È un sistema che non è più governato da alcunché legge trascendente. Al contrario, smantella tutti i codici trascendenti per poi ristabilirli secondo criteri propri. I limiti del capitalismo non sono fissati per decreto, ma definiti e ridefiniti, pragmaticamente improvvisando. In questo, il capitalismo è molto simile alla cosa del film di John Carpenter. Un'entità mostruosa, plastica e infinita, capace di metabolizzare e assorbire qualsiasi oggetto con cui entra in contatto. Il capitale, dicono Deleuze e Guattari, è un impasto informe di tutto quanto è già stato, uno strano ibrido di ultramoderno e arcaico. Negli anni trascorsi, da quando Deleuze e Guattari scrissero i due volumi di Capitalismo e Schizofrenia, è sembrato che gli impulsi deterritorializzanti del capitalismo fossero stati confinati alla finanza, con le forze della riterritorializzazione rimaste a presidiare il campo della cultura. Ovviamente questa inquietudine, Questa sensazione che non ci sia più nulla di nuovo non è a sua volta niente di nuovo. A quanto pare siamo nel pieno di quella fine della storia di cui parlò Fukuyama dopo la caduta del muro di Berlino. La sua tesi, secondo la quale la storia ha raggiunto il suo climax con l'avvento del capitalismo liberale, è già stata ampiamente derisa. Eppure ha finito per essere accettata, persino introiettata a un livello culturale inconscio. Andrebbe però ricordato che persino quando Fukuyama avanzò l'idea che la storia fosse approdata alla sua ultima spiaggia, di trionfalistico c'era poco. Fukuyama avvertiva che la sua immaginaria Ville Redieu era infestata dai fantasmi, solo che pensava si trattassero dello spettro di Nietzsche, anziché di Marx. In uno dei suoi passaggi più profetici, Nietzsche parla di un'era satura di storia. Un'epoca incorre nella pericolosa disposizione intima dell'autoironia e da essa in quella ancora più rischiosa del cinismo. Si legge nelle considerazioni attuali: un carnevale cosmopolitico avrà sostituito la partecipazione in coinvolgimento. È la condizione dell'ultimo uomo nicciano, colui che ha visto tutto, ma che proprio l'eccesso di autoconsapevolezza condanna all'indebolimento e alla decadenza. In una certa misura, le posizioni di Fukuyama sono speculari a quelle di Frederick Jameson. È noto che Jameson definì il postmodernismo come la logica culturale del tardo capitalismo. Il fallimento del futuro era per lui una parte integrante di quella cultura postmoderna che, come correttamente anticipò, sarebbe infine stata dominata dalle plastiche e dal revival. Jameson ha dimostrato in maniera convincente il rapporto tra cultura e postmodernia e tendenze specifiche del capitalismo postfordista e di consumo. Da questo punto di vista sembrerebbe che non ci sia alcun bisogno di un concetto come realismo capitalista. E in qualche modo è vero. Quello che chiamo realismo capitalista potrebbe benissimo essere ascritto alla voce postmodernismo per come teorizza da Jameson. Ma, nonostante l'immane sforzo chiarificatore di Jameson, postmodernismo resta un termine controverso. Oltre che dai significati molteplici e incerti, il che è senza dubbio appropriato, ma anche poco utile. Meglio ancora, alcuni dei processi analizzati e descritti da Jameson si sono talmente aggravati e cronicizzati da aver subito una trasformazione qualitativa. In sostanza, ci sono tre ragioni per la quale postmodernismo preferisco un termine come realismo capitalista. Innanzitutto negli anni Ottanta, quando Jameson avanzò la sua tesi, al capitalismo c'erano ancora delle alternative, almeno a parole. Quello che invece stiamo affrontando adesso è un più profondo e pervasivo senso di esaurimento, di sterilità culturale e politica. Negli anni Ottanta, per quanto ormai prossimo al collasso, esisteva ancora un socialismo che si definiva reale. In Gran Bretagna le linee di faglia dell'antagonismo di classe si manifestarono in maniera palese grazie a un evento come lo sciopero dei minatori tra l'84 e l'85. La loro sconfitta fu anzi un momento cruciale per lo sviluppo del realismo capitalista, significativo tanto dal punto di vista simbolico quanto nei suoi effetti pratici. La chiusura delle miniere venne in effetti sostenuta proprio sulla base che tenerle aperte non fosse economicamente realistico, mentre i minatori vennero relegati al ruolo di ultimi attori di un romanzo d'appendice in salsa proletaria e destinata al fallimento. Gli anni Ottanta furono il periodo in cui il realismo capitalista si lottò fino a riuscire a imporlo, anni in cui la dottrina thatcheriana del non c'è alternativa, il perfetto slogan realista capitalista, si trasformò in una spietata profezia che si autoavvera. In secondo luogo, il postmodernismo è in qualche modo figlio del modernismo. Il lavoro di Jameson sul postmodernismo inizia con una messa in discussione dell'idea, cara ad Adorno e soci, che il modernismo possedesse un potenziale rivoluzionario in virtù soltanto delle sue innovazioni formali. Quello che invece Jameson aveva notato era l'assorbimento di temi modernisti all'interno di una cultura popolare. Pensiamo all'improvviso uso delle tecniche surrealiste fece della pubblicità. Nello stesso momento in cui le forme peculiari del modernismo venivano assorbite e commercializzate, il credo modernista, la sua supposta fiducia nell'elitismo e il suo modello culturale monologico dall'alto verso il basso, venne messo in discussione e rigettato in nome della differenza, della diversità e della molteplicità. Il realismo capitalista non intrattiene più un confronto di questo tipo col modernismo. Al contrario, dà per scontata la sconfitta del modernismo al punto che il modernismo stesso diventa un oggetto che può periodicamente tornare, ma solo come estetica congelata, mai come un ideale di vita. Infine, dalla caduta del muro di Berlino è passata un'intera generazione. Negli anni 60 e 70 il capitalismo ha dovuto affrontare il problema di come contenere e assorbire le energie che provenivano dal suo esterno. Adesso ha il problema opposto. Avendo incorporato con fin troppo successo quello che gli era esterno, come potrebbe mai continuare a funzionare senza un fuori da colonizzare e di cui appropriarsi? In Europa e negli Stati Uniti, per la maggior parte delle persone sotto i 20 anni, l'assenza di alternative al capitalismo non è nemmeno più un problema. Il capitalismo semplicemente occupa tutto l'orizzonte del pensabile. Jameson osservava con orrore il modo in cui il capitalismo si è sedimentato nel nostro inconscio. Che il capitalismo abbia colonizzato i sogni delle persone è oggi un dato di fatto talmente accettato da non meritare più alcuna discussione. Sarebbe comunque pericoloso, oltre che fuorviante, immaginare il recente passato come uno stato prelapsario gravido di potenzialità politiche. Ed è bene ricordare il ruolo che la mercificazione ha giocato nella produzione culturale del corso del XX secolo. Allo stesso modo, la vecchia lotta tra sovversione e incorporazione sembra aver esaurito il suo corso. Quella con cui ora abbiamo a che fare non è l'incorporazione di materiali che prima sembravano godere di un potenziale sovversivo, quanto la loro precorporazione. La programmazione e la modellazione preventiva da parte della cultura capitalista dei desideri, delle aspirazioni e delle speranze. Prendiamo per esempio quelle aree culturali alternative e indipendenti, che replicano senza sosta i vecchi gesti di ribellione e contestazione come se fosse la prima volta. Alternativa e indipendente non denotano qualcosa di estraneo alla cultura ufficiale, sono semmai semplici stili interni al mainstream, o meglio sono, a questo punto, gli stili dominanti del mainstream. Nessuno ha incarnato e sofferto questo stallo più di Kurt Cobain. Con la sua straziante inedia, con la sua rabbia senza scopo, il leader di Nirvana sembrò l'esausta voce dell'avvilimento che attanagliava la generazione venuta dopo la fine della storia. La stessa generazione cui ogni singola mossa era stata anticipata, stracciata, comprata, svenduta, prima ancora di compiersi. Kurt Cobain sapeva di essere soltanto un altro ingranaggio dello spettacolo, che su MTV niente funzionava meglio che le proteste contro MTV. Sapeva che ogni suo gesto era un cliché già scritto e che persino questa consapevolezza che essa stessa fosse un cliché, il vicolo cieco che paralizzò Cobain, è lo stesso descritto da Jameson. Esattamente come la cultura postmoderna nel suo complesso, Cobain si ritrovò in un mondo in cui le innovazioni stilistiche non sono più possibili. Quello che resta è l'imitazione di stili morti, parlare attraverso le maschere con le voci degli stili di un museo immaginario. Qui, persino il successo equivale al fallimento, perché avere successo significa soltanto che sei la carne di cui si nutre il sistema. Ma l'immensa rabbia esistenziale di Nirvana e di Cobain appartiene a sua volta a una fase ancora più vecchia. Dopo di loro sarà la volta di una pastiche rock che tenterà di replicare le forme del passato senza nessun alcun tipo di turbamento. La morte di Cobain ribadì la sconfitta e l'incorporazione delle ambizioni utopico-prometeiche del rock. Quando il leader di Nirvana morì, il rock stava già subendo l'ascesa dell'hip hop, il cui successo globale annunciava proprio quella precorporazione del capitale a cui accennavo sopra. In buona parte dell'hip hop oggi ogni ingenua speranza che la cultura giovanile potesse cambiare qualcosa venne sostituita dalla testarda adesione a una versione brutalmente riduttiva della realtà. Come sottolineò Simon Reynolds in un articolo per il mensile The Wire, nell'hip hop la parola reale ha due significati. In primo luogo significa una musica autentica e senza compromessi, che rifiuta di vendersi all'industria musicale e di ammorbidire e contaminare il proprio messaggio. Ma reale significa anche che la musica riflette una realtà segnata dall'instabilità dell'economia tardo-capitalista, del razzismo istituzionalizzato, del controllo e degli abusi della polizia sui giovani. Reale significa la morte del sociale, grandi aziende che rispondono all'aumento dei profitti non alzando i salari o aumentando i diritti, ma riducendo il personale, ovvero tagliando la forza lavoro permanente, allo scopo di creare quel bacino occupazionale da cui poter pescare impiegati part-time e lavoratori freelance senza diritti e tutele. Alla fine, proprio l'esibizione che l'hip hop ha fornito di una realtà senza compromessi, ha fatto sì che venisse infine cooptata dall'altra realtà, quella dell'instabilità economica tardo-capitalista, dove lo sfoggio di autenticità si è dimostrato un valore particolarmente redditizio. Un fenomeno come il gangster rap non si limita a riflettere le condizioni sociali preesistenti, né di quelle condizioni niente meno che la causa. Piuttosto, il circuito attraverso il quale l'hip hop e società tardo-capitalista si alimentano a vicenda è uno dei modi in cui il realismo capitalista si trasforma in una specie di mito antimitico. L'affinità tra l'hip hop e un gangster movie come Scarface, Il Padrino, Le Iene, Quei Bravi Ragazzi e Pulp Fiction derivano dalla comune pretesa di aver spogliato il mondo di qualsiasi illusione sentimentale e di averlo invece mostrato per quello che è. Una guerra hobbesiana di tutti contro tutti, un sistema di sfruttamento perpetuo e criminalità generalizzata. Nell'hip hop, scrive Reynolds, con quello stato di natura in cui cane mangia cane, dove sei o vincente o perdente e dove i più sono condannati a perdere. La stessa visione neo-noir del mondo la troviamo nei fumetti di Frank Miller e nei romanzi di James Roy. Nei loro lavori c'è come una sorta di machismo smitizzante. Entrambi si pongono come osservatori inflessibili che rifiutano di imbellettare il mondo e di piegarlo all'apparentemente semplice etica binaria dei supereroi e della tradizionale narrativa poliziesca. Il realismo è qui in qualche modo amplificato, anzi indebolito, dalla loro fissazione per tutto quanto è torbido e venale. Sebbene in entrambi gli autori l'iperbolica insistenza su barbarie, tradimenti ed efferratezza finisce in fretta per sembrare una pantomima. Nel 92 Mike Davis scrisse di Roy che nella sua totale oscurità non è rimasta luce nemmeno per proiettare le ombre e il male diventa una banalità forense. Il risultato assomiglia molto all'effettiva trama morale dell'era di Reagan e Bush, una tale impersaturazione della corruzione da non suscitare nemmeno più scandalo o interesse. Ma nonostante tutto, proprio questa desensibilizzazione ha una sua funzione dall'interno del realismo capitalista. Come ancora Davis ipotizzò, il ruolo di un genere come l'LA Noir potrebbe essere stato quello di favorire l'affermazione dell'Homo Reaganus. stone will be thrown at the state and a stone will be thrown at the churches. Stone will be thrown at the state and a stone will be thrown at the churches. Merely miracle waiting upon places, places, mystical light, dark, light, light, bright, struggle, my appetite. Time, fear, loneliness, failure, pain, disfigurous behavior, money, time, very last time, things never leave behind, worrying time, head up, corners, obvious answers, questions, over, blinding fictions, hard on fictions, senses, faces, conditions. A stone will be thrown at the state and a stone will be thrown at the churches. Dark, light, light, bright, struggle, my appetites, time, shield, loneliness, failure, pain, disfigurous behavior, money, time, very last time, things ever leave behind, worrying time, head up. Covers, obvious answers, questions over, blinding fictions, audio addictions, senses, faces, conditions, nearly miracle waiting upon places, faces, mystical moments, dark, light, light, bright, struggle, my appetite, time, fading, glomerous, fear, pain. Behavior, moment, time, very last time, things ever leave behind, worrying time, head up, covers, obvious answers, questions, but blinding fictions, audio addictions, senses, faces, conditions, merely miracle waiting, places, faces, mystical patterns, dark, light, light, bright, struggle, my appetite, time, feeling, loneliness, failure, pain, disfigurous behavior, money, time, very last dime, things ever leave behind. Meno male che i microfoni sono spenti durante i fuori onda, perché no, vabbè, finito il capitolo primo, scusate, è stato molto complicato in realtà, poi uso parole facili, ma vaffanculo, non è vero, sono parole belle, dense, belle riferimenti, esatto, mi sa che ho spesso spento. Oh, riferimenti, parole dipende, vabbè, però dai, ti è piaciuto? Homo Reganicus, esatto. Reganicus. Però dai, comunque è stato bellissimo la musica di sottofondo, quindi vi consiglio di in questi giorni andare a spippolarvela un po'. Letture riprenderà con gli altri capitoli dal secondo in avanti. Il secondo è molto molto breve, quasi quasi, ci penso. Ma sì. Però due parole sul primo da Tommaso io le voglio adesso. Allora, detto che io nel frattempo andavo avanti a lavorare. Dici cosa stavi facendo, così facciamo anche un po' di pubblicità così all'interno, perché poi Fischer ci ricorda che tanto la pubblicità, la comunque pubblicità si mangia comunque tutto. Si mangia tutto, quindi. Infatti su quello mi è venuto in mente un paragone che probabilmente potrebbe anche fare lui utilizzando una serie TV. No, io nel frattempo, mentre ti ascoltavo, che io quando, di solito quando lavoro col computer ascolto spesso radio così, quindi ti ho usato proprio come sfondo. Esatto, come sfondo. Come radio. Però ti ascoltavo. E sto lavorando sullo statuto dell'associazione Il Turno di Notte, che è la mia compagnia, che ancora non ha una forma giuridica, e stiamo cercando di, abbiamo pensato che almeno inizialmente, per poter fare lavori col territorio, con i municipi eccetera, serve essere associazione. Quindi stavo lavorando a quello, però ho ascoltato, e mentre ascoltavo mi sono rimasti alcune questioni, questa questione sicuramente della fine della storia, il film quel film che lui cita dall'inizio è brutto, io l'ho visto, I figli degli uomini, è veramente anche un brutto, a me non è piaciuto film. Anche però... a me non è piaciuto. Mi piace il fatto che lui faccia esempi con i film che sono stati all'Odeon a Milano potenzialmente. Ma sicuramente è tutto un discorso anche di Hollywood, è molto criticabile da quel punto di vista lì, nel senso che ci sono anche opere minori che parlano di temi molto più interessanti e speranzosi. Ovviamente però quello lui... è una cosa che magari in tanti hanno visto. Sì, uno lì. Quello, quindi l'idea è proprio appunto quella di parlare un po' alle masse, ovviamente. Però effettivamente è un'interpretazione... nel senso, magari che non ti viene in mente di fare, che ti smuove un tipo di immaginario, perché tocca un genere che fa quello di mestiere e che lui dichiara come il capitalismo lo faccia per mostrarsi di mestiere. È un discorso molto interessante, nel senso che una delle cose che sto studiando in questo periodo è l'idea secondo cui una realtà, per come la stiamo conoscendo noi, potrebbe decretare la fine di alcuni generi cinematografici. Ormai è difficile immaginarsi, per esempio, un discorso che un autore di riferimento che si chiama Arun Farocchi fa in uno dei suoi scritti, che è Sguardi di controllo, e fa un esempio nelle carceri. In America, lui ha fatto questo studio per un film una quindicina d'anni fa, se non sbaglio, forse dico una stronzata, comunque un po' di anni fa, promuovevano la possibilità, poi a un certo punto è diventata anche la norma, di smettere di fare visita alle persone in carcere. Questi non luoghi, centri carcerari che sono fuori dalle metropoli, molto spesso sono una spesa per i parenti per andare a trovare i propri cari, e l'hanno messa giù in questa chiave qua, installando delle cabine per videotelefonare, quindi poter vedere le persone da remoto. Questa situazione, ovviamente immagino in un contesto a macchia d'olio, quindi più diffusa, ovviamente questo è l'esempio degli Stati Uniti e nel luogo in cui lei ha girato il documentario sulle carceri, però potrebbe potenzialmente far finire le scene in cui due persone si incontrano in carcere e una lascia la chiave. Sono Sofà, Anarchy, tutta una serie di immaginari break, che fanno parte di generi, appunto, per esempio un genere di thriller piuttosto che film di polizia, ma lo stesso discorso potrebbe avvenire nel cyberpunk e nella fantascienza. In questo momento storico siamo davanti a vari magnati del denaro e del capitalismo che investono nel turismo spaziale. Vedere quelle immagini e la propaganda che ne viene fatta di quelle immagini è metaforico, perché è come una dichiarazione di abbandoniamo la nave che abbiamo saccheggiato fino adesso perché non ci serve più, non può più accompagnare il nostro stile di vita, portiamo il nostro stile di vita, la nostra cultura altrove. Che in qualche modo è Wall-E, il film, quello della Pixar, col robottino, sì, che rimane... è anche l'uomo che è colonizzatore, a quanto pare, dall'alba dei tempi, però non si ferma all'aver finito di saccheggiare un pianeta, adesso puntiamo a quel tipo di... Sì, cioè invece turismo. Di mettere in discussione un certo modello, esatto, sociale, che per sopravvivere, lo dice forse più avanti nel libro, ma insomma è una frase che ci sa comune, per sopravvivere ha bisogno di continuamente espandersi, esatto, invece di mettere in discussione quello, una cosa che può vivere solo se si espande, tu continui a farla espandere andando nello spazio e investendo capitale che potrebbe per... cioè è come se mi viene da dire, quasi, non dico che la soluzione ce l'hai in mano nel portafoglio, però se qualche milione al posto di costruirti il razzo spaziale per far andare poi le persone che tu deciderai meritevoli su quel razzo spaziale e salvarsi su Marte, ipotizziamo un futuro, sì, distopico, ma non più tanto. C'è stato anche un film molto costoso poco tempo fa col tizio che fa Capitan America, che si ritrova proprio in una situazione così, cioè che ve si trasferiscono su un altro pianeta. E in quel caso lì poi tu potresti tornare indietro e dire no, io perché investo in questa cosa? Io investo nel mondo in cui vivo per farlo stare meglio. Poi mi si giustificherebbe sicuramente le scoperte a livello scientifico che si possono fare nello spazio, che possono servire poi a curare delle cose interne noi. Questo è un discorso che viene fatto da anni, quando si guardano i video della NASA e si chiedeva perché si spende tutti quei soldi per la ricerca aerospaziale comunque, ma qui si sta parlando di turismo spaziale. Sì, sì, proprio di turismo spaziale. Un biglietto venduto per fare un giro, per adesso. Poi che sia il prototipo del Elon nostro Musk, trasloco, sì, e dell'altro signore suo compare. Non facciamo nomi, che gli facciamo pubblicità comunque. Vabbè, ci serviamo come Richard Gere, non facciamo che sono lì di invisibilità. Esatto. E questo secondo me un po' si collega, che lui lo cita, un po' questa teoria, idea, sentimento di fine della storia, che di Fukuyama, credo. Mm-hmm. Cioè, che è un libro che appunto arriva dagli anni, all'inizio anni 90, che però in qualche modo sta trovando una sua concretezza in quello che vediamo. In quel caso, un fine della storia non come apocalisse, ma come un continuo ripetersi di una cultura borghese, sì, che non evolve. Chiaramente però un continuo ripetersi di una cultura borghese legata al capitalismo fa sì che la fine della storia sia sì dal punto di vista culturale, ma poi letterale, nel senso che con un sistema di questo tipo il mondo a un certo punto, volenti o nolenti, finisce. E questo è interessante. C'era anche Harari, che è uno studioso, credo che sia israeliano, che aveva portato avanti un po' questi studi. Poi lui ha fatto un po' una cantonata perché ha detto che ormai la storia è finita, tanto che ormai per l'uomo non è neanche più possibile una pandemia. E poi tipo 5 mesi dopo che è uscito il libro, bam. Ma invece sulla parte del rap, sì, del gangsta rap, tu che dici? Ma lui è molto tagliente, poi vabbè, sicuramente saranno anche dei gusti personali che arrivano a sé. È molto lucido nel definire come anche una cultura musicale si è insediata portando dei valori di realtà e fare questo binomio, questo collegamento col suo termine di realismo capitalista. Perché effettivamente come senso di positività al pensare a una situazione reale ti fa pensare ovviamente che realismo capitalista sia una cosa che c'è, è lì, ed è positivista in un certo senso, sì. Ma lui se stesso penso che lo sia insito, nel senso che permettere di toccare l'immaginario della massa, poi ovviamente ci sono casi e casi, ma se i giovani sognano di fare i calciatori e fare i soldi e le ragazze sognano di avere successo e fare soldi e poi è tutto un consumismo, se tu arrivi a plasmare il desiderio dei giovani in senso positivista portando a te quello che è il tuo consenso, la situazione diventa pericolosa, perché lui poi negli altri capitoli vedremo come tocca anche il sistema scolastico, quindi di istruzione e di età adolescenziale, come il capitale riesce appunto a insidiare all'interno di una mentalità che potrebbe essere libera e innovativa una situazione di stasi, di quasi noia, passività. I suoi esempi, perché lui penso abbia anche insegnato, se non sbaglio, poi ci informeremo meglio. Beh, però sicuro, i suoi esempi a lezione, fa degli esempi di chi c'è stato, esatto, dentro. Gli esempi a lezione erano proprio quelli di ragazzi e ragazze totalmente assorti nel dispositivo piuttosto che nel sistema scolastico, che è anche quello privato, perché lui fa gli esempi di scuole private ovviamente. Io, per dirti, mentre su questa cosa del gangsta rap mi ha colpito, a parte che poi lui è inglese, quindi non so come sia, probabilmente ha un certo immaginario legato all'America e l'Inghilterra, e mentre magari in Italia ha preso anche altre derive, ma sono sicuro che sia successo anche altrove, e quindi c'è un modo di fare hip hop che non è lupo contro lupo, tutti contro tutti, anzi, poi qui a Zam per esempio c'è Rap Caverna Posse, che proprio nei testi che fa si sente che ha un'altra visione. Però ho trovato interessante questo fatto in cui uno dice che in qualche modo tu sei in una situazione di sottoproletariato, diciamo così, di disagio, a causa di un modello, e tu proponi quel modello anche nella tua arte, pensando di fare una cosa che è contro il sistema, ma in realtà tu in quel modo di vedere il mondo stai perfettamente rispecchiando quel sistema che ti ha fottuto in qualche modo. E quello l'ho trovato interessante come questione, perché mette in gioco anche dei meccanismi, quindi quanto anche l'underground di un certo tipo si allontana veramente, quanto la rabbia di un certo tipo si allontana veramente dal sistema, forse non così tanto. E poi mentre ti ascoltavo così mi è tornato in mente questo discorso di realismo come ironia, come distacco, per farsi in qualche modo di proteggersi. Pensate un botto alla stand-up comedy, ma tantissimo, è un certo tipo di ironia e di cinismo che in questo momento va, anche in teatro in alcuni casi, va moltissimo. Io più lo sento, a parte alcuni tipo Bo Burnham, e più effettivamente vedo questo meccanismo che ci sta, è giusto che ci sia, ma a volte mi chiedo, quanto mette in gioco qualcosa che possa cambiare, non dico il mondo forse essere incidente in qualche modo, essere incidente. Secondo me è un discorso comunque che funziona molto in grande, con la legge dei grandi numeri, nel senso che, non a caso, citando Deleuze e Guattari, è un tema che riecheggia spesso in radio, mi prenderanno per il culo un sacco in redazione, però il rizoma, quindi un esercizio rizomatico di saperi, pratiche, ma che si sposta di territorio in territorio e riesce in qualche modo a creare dei ponti, potrebbe essere un'idea interessante. Effettivamente leggerlo è disarmante da un certo punto di vista, perché è lapidario, e negli esempi anche filmici o di scrittura eccetera, poi uno magari si ferma, sono ovviamente libri che non ti permettono magari di andare filato, io molto spesso mi devo fermare, andare a fare qualche ricerca, capire due cose e poi riprendere. È anche interessante appunto questi ponti che si creano, però ti fermi e ti chiedi, ok, e mo che faccio? Che si fa? Perfetto, grazie, ok, ottimo tutto questo, perfetto, vogliamo uscire da questo turbine. Il libro, vabbè, poi non facciamo spoiler ovviamente, però ti fa fare delle domande, mettendo in discussione così tanto. Senza però riuscire nell'intento di proposta di un mondo diverso, di proposta di parole diverse, che, sempre citando un altro scrittore che con Not Bifo, Berardi, che poi non è che deve seguire per forza tutto quello che dice, essere d'accordo, certo, ma la necessità di trovare nuove parole per poter immaginare altro è fondamentale, e vediamo poi magari nella lettura, magari invece arrivano bisogna, queste parole. Bisogna chiedersi qual è l'intento. Se l'intento è dare una soluzione, allora sono d'accordo con te che sia manchevole. Però citi Bifo, io di Bifo, dei libri che ho letto, delle cose che ho letto, soltanto Heroes alla fine riesce a dirti cosa farebbe lui, rimanendo umile secondo me anche più di altri scritti, rispetto a una situazione che ha appena descritto come tal dei tali, ok? Sicuramente sarà un libro molto interessante da leggere al programma, però anche esso abbastanza complicato, poi Bifo è più caotico, diciamo, di Fischer. Sì, lui è un oratore. Esatto, e però questo è per esempio il suo libro meno oratorio e più, secondo me, ragionato, proprio perché, continuando a scrivere determinate situazioni lucide, lapidarie e insindacabili da un certo punto di vista, perché attingono a delle realtà insindacabili, perché anche lui fa molti esempi di cronaca, per esempio, lui, più che di film e musica, però arriva negli ultimi capitoli a dirti, oh, secondo me si dovrebbe fare questo e questo, poi tu sei liberissimo, liberissima di decidere se farne una pratica o altrimenti limitarti ad avere guadagnato un'idea in più di sovversione, perché è alla fine di quello che si parla. È vero, io quando ho proposto questo libro in redazione, un compagno giustamente ha detto, bellissimo che si torna a fare il programma letture, speriamo di non far sì che lo spettro Fischer, che poi abbiamo detto appunto che ha finito male, sia una cosa incidente, insomma. Io non penso che leggerlo, nel senso, è vero il discorso del lapidario e tutto, però ho sentito delle note di propositività all'interno del libro. Sì, sì, anche nel modo in cui analizza il reale c'è un tentativo di porre delle domande, porre delle questioni, ma per cercare di poi fare delle riflessioni altre. Sapendo come va a finire la sua vita, non è particolarmente incoraggiante pensare che un certo tipo di domande, però poi c'è anche una condizione personale che non è esatto. Si può semplificare così e dire uno ha visto i problemi del capitalismo e non è riuscito e si è gettato, no. Anche se probabilmente il capitalismo c'entra col motivo per cui uno ha tutto un certo di questioni di esagerando disturbi mentali, ma anche patologie di altro tipo. Invece mentre ascoltavo di nuovo quel momento, perché è molto denso questo primo capitolo, sì, tantissimo, uno dei più lunghi, mi ricordo che infatti sono dovuto andare più volte indietro nelle pagine quando l'ho letto, la questione della pubblicità e del capitale, che in qualche modo riesce a mangiarsi il contenuto di alcune cose ma usarne l'estetica. E mentre leggevi, a me è venuto proprio in mente un esempio: se Fischer fosse vivo gli scriverei su Facebook e lui non mi risponderebbe, in cui c'è Mad Men, questa serie su America pubblicitari, va dal 59 al 71, spoiler, sto facendo uno spoiler, ma non è sulla vita. Il protagonista a un certo punto ha una crisi di identità, finisce in questa comune hippie, mentre è lì in questa comune hippie a cercare di stare meglio. Quindi in quel momento l'hippie un certo tipo di controcultura, con dei contenuti, con anche un'estetica, ma soprattutto con contenuti. Vedi lui che sta facendo una meditazione, poi all'improvviso apre gli occhi con un sorriso, e la scena finale di Mad Men è la pubblicità della Coca-Cola con un canto degli hippie che era diventato famoso in quel periodo, e gli hippie che con la Coca-Cola in mano festeggiano. E questo è un meccanismo che a me fa una paura. I flash mob, un po' di tempo fa ci fu una mostra con le locandine del movimento, che poi a livello di font e di stili sono state prese dalla pubblicità. A me fa paura questo fagocitare, questa forza di riuscire a farlo così. E quello che poco tempo fa conoscevo una ragazza, però è una che no, per dire, sto parlando di un caso singolo allargandolo, però okay. Mi ha colpito questa conversazione. E lei vuole fare l'attrice, le stavo dando una mano per i provini. Studia però pubblicità allo Yulm. Ok. E lei, quando siamo finiti a parlare di questa cosa, lei diceva: ma perché? Qual è il problema di questa cosa? Cioè, è anche un'arte la pubblicità. Quello sì, le ho detto. Ma nel momento in cui tu, come pubblicità, prendi un qualcosa che ha un senso, come ad esempio l'H, e prendi l'H e la fai diventare quindi un ballo sacro, per spostare il discorso non solo sui compagni, ma un ballo sacro fatto in prima della guerra, ai funerali, ai matrimoni, alla nascita, una eccetera, culturale ben definita, culturale comunque, sacra, con delle tradizioni, dei legami, e pigli e la fai fare alle mamme italiane bianche per vendere i passeggini. Secondo me c'è un problema. e lei, ragazza di questo del ventunesimo secolo, anzi degli anni, nata negli anni 2000 tipo, che con una testa in gamba che studia pubblicità, questo problema non lo vedeva. Perché non è un problema, anzi è una delle sue forze. Sì, ma io dico un problema a livello etico in sì, qualche modo. No, esatto, però non vedendo il problema e pensando che il problema non c'è, perché il suo evidentemente benessere non gli impedisce di vederlo, perché forse è quello anche. Nel senso, io mi scontro spessissimo, quasi il 70% dei miei passatempi, cioè scusami, non dei passatempi, ma di tutto il resto, è scontrarsi con persone che non ha capito probabilmente. Vuoi il pensiero in generale, vuoi un discorso di mondo, di comunità, eccetera. È complicato. C'è un discorso nell'immaginario collettivo dato dai media che è forte da un certo punto di vista, ma altrettanto debole e statico e lobotomizzante dall'altro. Sì, ma perché in qualche modo, anche andando molto sul pane, vino al vino, è il realismo, questo modo di essere realisti, fa sì che tu non ti debba stupire e stranire di quello che è intorno, perché il mondo è così, e quindi trovi una soluzione per stare, una soluzione che è sì realista nella vita, per poterci stare in questo mondo senza farti fuori o certo, altro. Certo, o viverla male fondamentalmente. Sì. E niente, quindi ci stuzzica Fisher, ci stuzzica, lo farà ancora di più nei prossimi capitoli, perché io e Tommaso, quando ci siamo detti: ah, stai leggendo Fisher? Ah sì, toccavamo un tema che era molto interessante, quello della depressione. Sicuramente il parallelismo con Beef e con Heroes non è a caso, perché il libro Heroes, il sottopan, è omicidio e suicidio di massa, o suicidio e omicidio di massa, e Fisher appunto, abbiamo detto, si è suicidato. Di Beef, prima che chiudi, mi ha fatto ridere un mio amico l'altro giorno, che lavorava in una libreria a Bologna. Con questa signora ogni tanto Bifo passava di lì, e questa signora ogni volta che andava via guardava il mio amico e diceva: come sta male, no. sta male. Soffre. E noi con loro. E noi ridiamo, e noi con lui. E noi con lui, però ridiamo appunto, quindi letture, sì, diciamo, è finito. Però come di consueto vi lasciamo con una bellissima playlist che dura ancora circa 4-5 tracce. Prima è partita una tecnazza mentre parlavi. Sentite. Madonna, ho dovuto fare uno shuffle al volo perché stava partendo la radio. Comunque rimarrà in playlist, i prossimi brani rimarranno anche questi in playlist. Ci sentiamo non so quando riusciamo a trovare del tempo. Se Tommaso ha il piacere di accompagnarmi anche alla prossima, bene, se no grazie mille. Addio Zona Rossa. No, ringraziamo l'attore Tommaso Russi e vi lasciamo con vai, la terza di copertina. Mark Fisher, 1968-2017, è stato scrittore, critico musicale, filosofo e attivista. Ha scritto tra gli altri per il Guardian, il New Statement e per il mensile The Wire, oltre che ad aver tenuto per anni Cap Punk, uno dei più seguiti blog di Culture Theory in lingua inglese. Tommaso, grazie. Signor Lorenzo. Buona serata, buona radio. Ascoltate Radio ZM, collegatevi al sito di zam-milano.it per i podcast. Bolle, un sacco di cose in pentola. Ieri c'è stata la riunione di redazione, o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. E io non c'ero, ho letto il report. Veramente, veramente gozzo, Tommy. Preparati.